Melog. Cronache meridiane di Gianluca Nicoletti. Ci tengo a fare questo video per parlarvi personalmente di un problema di Torino, l'illegalità stradale. Nello specifico, con questo termine, oggi voglio riferirmi a quello che solitamente viene chiamata la mala sosta, cioè il parcheggio selvaggio e incontrollato delle automobili dove non potrebbero parcheggiare, soprattutto in alcune zone della città. Questo problema non tocca soltanto il decoro urbano o il fastidio che possiamo provare nel vedere le macchine parcheggiate ovunque, ma è una questione seria che provoca a tutti noi danni e insicurezza. Immaginate il danno che le macchine parcheggiate sulle strisce provocano tutti i giorni ai torinesi costretti sulla carrozzina, ma questo è solo un esempio. Senza contare il fatto basilare che tollerare ancora questo fenomeno vorrebbe dire continuare a legittimare chi ha comportamenti incivili e a danneggiare i cittadini che invece tutti i giorni fanno uno sforzo per rispettare le regole. Pensa ad esempio a Corso Giulio Cesare, via Vanchiglia, via Madama Cristina, via Nicola Fabrizi, via Questo Cibrati. Era un messaggio che aveva pubblicato in rete il sindaco di Torino, Chiara Appendino, sacrosanto, che richiamava all'attenzione i cittadini torinesi. Poi uno pensa a Torino, una città del nord, una città nota per il suo decoro, per la tenuta, il carattere stesso del torinese, sembra non certo incline alla trasgressione, alla sosta selvaggia, all'uso improprio delle aree riservate. E evidentemente il sindaco Appendino giudicava che fosse importante comunque richiamare i torinesi questa attenzione. A distanza di poche ore da questo messaggio comincia a circolare su Facebook la foto dell'auto di servizio del vice sindaco Guido Montanari parcheggiata su uno stallo per disabili. Ora, non ci interessa entrare nel merito di questa vicenda, poi si prenderà tutta la colpa all'autista, dirà sono io che l'ho parcheggiata soltanto per pochi minuti. Questo è materia ormai di dibattiti all'interno della compagine del Comune di Torino, perché naturalmente la foto era stata messa da un rappresentante dell'opposizione, quindi è diventato un fatto politico. Però sta di fatto che questa diventa una case history, un esempio per poter ragionare su un tema che più volte abbiamo affrontato a questi microfoni, ma che mi sta particolarmente al cuore: il rispetto degli spazi comuni nelle città. Ora, vivendo a Roma sembra molto più facile considerare ormai il malcostume come regola. A Roma in certe ore della giornata il traffico è bloccato, ma non perché accada qualcosa di particolare, perché sono talmente tante le macchine parcheggiate in seconda, terza fila, che naturalmente in scala progressivamente rallentano il traffico, perché ognuno deve comunque fermarsi qualche istante, deve comunque stare più attento, c'è la macchina parcheggiata in seconda, terza fila, comunque non passa l'autobus, e questo spalmato per le migliaia di macchine che circolano nel centro cittadino, nelle strade più trafficate, nelle ore di punta, significa un blocco del traffico. Riguardo all'esempio poi in particolare che ha coinvolto il vice sindaco di Torino, l'occupazione selvaggia degli stalli per disabili, io sono convinto di questa cosa si parli soltanto perché è coinvolta, questo fa molto scandalo, un rappresentante di un'amministrazione, un vice sindaco. Tutti sono pronti a puntare il dito contro il vice sindaco, che senz'altro per la sua parte è colpevole di questo atto gravissimo, anche se fosse stato il suo stesso autista, comunque lui è titolare di quella macchina di servizio, e comunque sia in qualche maniera ne risponde, risponde comunque di un gesto che non è un gesto di leggerezza. Risponde l'autista esattamente come risponde ogni signore che viene trovato a parcheggiare la sua macchina in uno stallo riservato a un disabile, ma è soltanto per pochi minuti. Non c'è la generale percezione che quello è un furto, che sta rubando qualcosa che appartiene ad altre persone, esattamente come se rubasse un'automobile, ma molto più grave, perché ruba la serenità, ruba il diritto di persone che hanno già una mobilità limitata, già hanno dei problemi per vivere appieno le città, di poter vivere la sua vita in maniera più tranquilla possibile. Quindi questa mattina vorrei che voi mi aiutaste a segnalare tutti quei comportamenti di persone delle quali anche noi facciamo parte, anche noi in parte siamo colpevoli con la nostra reticenza nel segnalare gli abusi, con la nostra indifferenza quando ce li vediamo fare sotto il naso, con la nostra impossibilità certe volte di percepire quanto sia grave veramente fare propri in maniera scellerata quelli che sono gli spazi pubblici. 800 24 00 24, tra un istante. OneExpress.it. Network italiano che viaggia in Europa vi presenta Melog. Cronache meridiane. Avevo appuntamento col mio medico di base. Volevo parcheggiare, ma il posto era occupato da una autovettura che non aveva all'interno alcun contrassegno disabili. E ragion per cui ritengo che la persona in questione non avesse alcun diritto ad occupare il posto che invece io avevo diritto a occupare. Allora, è stato violato un suo diritto, lei è un disabile. Questa è una delle tante e più frequenti lamentele che fanno le persone che hanno un diritto certificato di avere degli spazi di parcheggio a loro dedicati, che si ritrovano però occupati in maniera impropria da persone che non hanno quel diritto. La prima giustificazione che viene fatta dall'occupatore abusivo è quella: sì, ma con tanti falsi disabili che girano, vatte la pesca poi, se chi ce la mette veramente ha diritto. Non escludo, è senz'altro vero il fatto che gran parte, parte comunque non grande, ma una certa parte di persone che esibiscono un contrassegno per poter parcheggiare negli stalli per disabili, in realtà impropriamente ne fanno uso o non hanno il disabile con loro a bordo, quindi non possono usufruire di quel parcheggio, o è un permesso di qualche parente già morto e defunto da anni, o l'hanno ottenuto, come spesso accade, spesso si legge, attraverso vari improbabili percorsi tortuosi. Questo però non implica, non depenalizza, non toglie dalla coscienza il fatto in quel momento si stia compiendo un reato a tutti gli effetti, anche se i vigili fanno finta di nulla, anche se non ci fa caso a nessuno, anche se la gente prende e mette i tavolini dei loro ristoranti su quei parcheggi. Comunque sia, bisogna avere questo tipo di consapevolezza. Siete convinti di essere tutti voi perfettamente consapevoli di quello che è il valore degli spazi pubblici e degli spazi riservati? Non voglio che questa mattina si punti soltanto il dito verso le responsabilità altrui, ma si faccia anche un esame di coscienza su quanto poi realmente anche noi abbiamo questa consapevolezza dello spazio pubblico. Claudio, buongiorno. Buongiorno, io sono Claudio e mi sono scelto un handicap motorio, quello di avere un'auto elettrica, cioè tutte le volte che mi finisce la carica ho necessità di caricare. Trovo sistematicamente le colonnine, gli spazi riservati alle auto elettriche occupati e quasi sempre sono macchine con tagliando handicap. Ovviamente io faccio sistematicamente le segnalazioni e mi è capitato l'ultima volta che fosse proprio una persona che aveva il tagliando handicap della mamma che non aveva in macchina. Quindi c'è. Ma qual è secondo lei il motivo? Che si sbagliano e vedono strisce gialle o volutamente dice tanto io c'ho il tagliando, la metto dove mi pare? Assolutamente. Il parcheggio è delimitato in maniera molto molto. Fra l'altro è anche diversa, sì. Ma anche diversa, sì. È impossibile equivocare, diciamo. Diciamo che sì, bisogna fare veramente poca attenzione per equivocare e la signora in questa fattispecie, perché poi c'è un problema in più, visto che queste macchine hanno tagliando handicap e io arrivo con la macchina scarica e devo caricare, altrimenti mi fermo per sempre, questa signora proprio ha detto: ma come, io ho il tagliando handicap? C'è il problema in più che i vigili non possono neanche fare rimozione, o meglio, possono rimuovere la macchina, ma la devono lasciare accanto, nelle vicinanze, cioè, le macchine degli handicappati, sì. Giustamente, cioè io sono qui a... Se magari usi un termine un po' meno, se può, crudele, se parlassi di suo figlio non gli piacerebbe chiamarlo handicappato, scusi. Certo, diversamente abili. Ma ancora peggio, chiami persone che hanno dei problemi, sono disabili. Bene, persone con problemi di mobilità, è giusto che la macchina non gli venga spostata, ma visto che in zona non ci sono mai parcheggi disponibili, le macchine non possono essere di fatto rimosse dal carro attrezzi, perché il carro attrezzi non trova posto. Sì, ma lei ha individuato un problema, senz'altro ha ragione. Le volevo dire, ecco, io nella mia, se la posso chiamare attività politica, ma non lo è, diciamo civica, è più di un anno e mezzo che abbiamo richiesto a Modena che si mettessero dei sensori, e ce ne sono già in commercio di varie tipologie, ci sono sensori a telecamera, anche a costi molto, molto contenuti, sì, lo so. Proprio per avere un monitoraggio dettagliato, chiaro e continuo, non dei posti elettrici che non mi interessano, ma proprio dei posti per persone con problemi di mobilità. No, lei, guardi, e queste letto, sono letto, cose molto semplici. No, lei tocca un problema. Costi veramente bassi. Storicamente, chi segue un po' le mie cose sa che ho provato anch'io in varie epoche a suggerire dei sistemi di dissuasione della sosta selvaggia. La tecnologia è molto semplice, la tecnologia è in vendita. Sembrerebbe in teoria molto semplice far parlare le banche dati con i sensori che segnalano le occupazioni improprie, però pare che sia un problema considerato un problema marginale anche per le amministrazioni, e quindi su questo comunque, al di là degli entusiasmi di farsi belli quando poi bisogna fare le presentazioni, fare le dichiarazioni, poi nessuno ci mette le mani davvero. Comunque quello che dice il nostro ascoltatore è un problema nuovo, perlomeno poco conosciuto. La possibilità che persone comunque non tagliando per parcheggiare nelle strisce gialle, che la mettono ovunque, perché tanto si sentono autorizzati per il fatto che loro hanno un problema di metterle anche in altri posti. No, nella sosta per le auto elettriche non la può mettere, che hanno tagliando per disabile. Tanto vale che la lasci in un parcheggio non consentito, in una sosta vietata e via dicendo, perché almeno non crea il problema chi poi deve mettere la macchina elettrica. Alessandro, buongiorno. Buongiorno, sì. Io sono Alessandro, io sono una persona disabile e lavoro in un negozio di ortopedia. Davanti al negozio ci sono dei parcheggi per disabili che sono costantemente occupati da persone evidentemente senza diritti. Di fianco al negozio c'è un panificio, vanno a prendere il pane e parcheggiano. I soliti due minuti, la lascio due minuti, la solita cosa, sì. Sì. E quindi lei dice non c'è nessuna maniera per far capire a queste persone che i due minuti non contano. Non contano i due minuti, e soprattutto la cosa che fa più arrabbiare è che quando ti rispondono, perché mi capita spesso non solo davanti al negozio ma in giro, ti rispondono: e anch'io sono stato in carrozzina un mese, mi sono rotto una sì, gamba. Lo sai, cioè, è proprio una questione di totale ignoranza, di totale benefreghismo e mancanza di educazione civica. Io ho abbandonato ormai la velleità di cercare di ragionare, perché mi rendo conto che è assolutamente inutile. Molte volte, io l'ultima volta che mi è capitata una cosa del genere, stanno scaricando un camion con dei generi alimentari per un negozio lì vicino, mi hanno anche trattato male, cioè noi dobbiamo lavorare. Come, scusi, lei mette un camion in un parcheggio, fra l'altro un'area con concessione riservata, ci faccia quello che vuole, chiami i vigili se vuole, tanto noi dobbiamo scaricare. Detto questo, io vorrei forse suggerire una formula per ricordare alle persone che hanno questo costume, che pensa che quei due minuti siano indifferenti. Voi rubereste la macchina a una persona per due minuti per farvi un giro? Avete la percezione, se voi prendete un'auto di un altro, ci fate un giro per due minuti, comunque vi arrestano, comunque compiete un reato. Ecco, occupare impropriamente un posto per disabili, anche per due minuti, per tre minuti, perché uno ha fretta, deve mandare una raccomandata, è comunque esattamente l'equivalente di prendere un'automobile altrui e farci un giro. La stessa cosa, con un aggravante però: fare il giro alla macchina di un'altra persona non si crea nessun danno, se non si compie un reato e si crea un disagio. In quel caso create un danno grosso. Il nostro amico ascoltatore, che deve parcheggiare per andare a lavorare, trovando il parcheggio occupato, per lui è un problema. Non so che tipo di problema abbia, ma comunque sia, parcheggiare una macchina in seconda fila, scendere e munirsi delle attrezzature necessarie per muoversi con tranquillità, è comunque un problema, gli si compromette la giornata. Mariella, buongiorno. Sì, buongiorno, le volevo portare questa testimonianza precisa. Mio marito ha difficoltà motorie notevoli e deve fare regolarmente fisioterapia. Il posto disabili più vicino al fisioterapista è stabilmente occupato dai cassonetti dell'AMA. Si trova in via degli Scipioni, davanti al numero civico 277. Ma avete mai fatto una segnalazione? Perché l'AMA, ecco, non può mettere i cassonetti in un parcheggio per disabili. Ma è stabile, capisce? Non è una volta, sono 3-4 cassonetti. Adesso mi domandavo, segnalatelo al municipio. Ecco, volevo chiederle, visto che lei ha parlato chiaramente di truffa, no, ho detto di furto. è un furto, sì, quello che è, ha ragione. Si può fare una denuncia alla Procura della Repubblica? Signore, se è un parcheggio diciamo con concessione, cioè se è destinato a una particolare automobile, penso che si possa denunciare. Se è un parcheggio generico per disabili, è un problema, penso, dell'amministrazione, dovrebbe sentire il suo municipio. Potrebbe essere fatta una sorta di azione etica morale, una sorta di dichiarazione di intenti, ma in realtà la parte lesa è tutto il mondo delle persone con disabilità, dovrebbe essere una sorta di class action in questo caso. Io farei più semplicemente una segnalazione diretta al suo municipio, che è il primo municipio, se vede gli Scipioni, se non sbaglio, e faccia presente questo tipo di problema, anche che il presidente del primo municipio so che mi sente per radio, quindi in questo momento avrà già preso appunti. Ci sentiamo fra un istante. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta Melog, cronache meridiane. Chiama il 113. Chiamalo tu che io sto filmando. Vi ammazziamo tutti i pezzi di merda. Vi ammazziamo tutti i pezzi di merda. Vi ammazziamo tutti, è la risposta che un gruppo di automobilisti ha dato davanti alla richiesta di liberare la ciclabile di Vittor Pisani, troppo spesso considerata come un comodo parcheggio per raggiungere i locali con pochi passi. Il grande viale che porta alla stazione centrale è completamente occupato, le auto sono parcheggiate sulla pista ciclabile e su una delle due corsie in direzione Piazza Duca d'Aosta. Partono le telefonate alla municipale, c'è una pattuglia, stiamo arrivando. Dal locale escono i clienti, un signore sulla quarantina che si qualifica come il gestore dei locali. Volano insulti alla volta dei ciclisti. Gli animi si scaldano quando le auto che provengono da Piazza della Repubblica iniziano a suonare. Il traffico è rallentato, i nervositi e i automobilisti si frecciano sulla corsia centrale dei taxi. Un ciclista viene investito. Dal locale partono le minacce, adesso usciamo e vi riempiamo di botte. Com'è facile che si scateni l'aggressività, la rissosità, gli aspetti più bestiali, arcaici che ha dentro di sé annidati ogni essere umano, quando viene violato il sacro diritto di poter mettere la propria illustre automobile ovunque uno lo ritenga più comodo. Questo è un fatto di cronaca, abitualmente un pezzo di pista ciclabile in una strada di Milano viene usata come parcheggio per gli avventori di un locale, e quando qualcuno poi protesta, chiama le forze dell'ordine, naturalmente ci si offende, ci sente privati del diritto dell'abusivo, del lecito abusivismo. È qualcosa di impensabile, ma è una mentalità diffusa, quella che io voglio fare, una battaglia culturale, soprattutto, è una sorta di tentativo forse disperato di far ragionare le persone. Faccio un esempio, mi scrive un ascoltatore, non che io mi offenda, non mi offendo per nulla, mi dice: esagerato, ipocrita, ma perché il disabile non può aspettare un po' quando il furgone o il camion sta scaricando viveri, merce per la collettività? Come fa a dire una cosa così banale? Non è che ho accennato a un camion della Caritas che sta scaricando merce per i terremotati o per delle persone affamate. È un camion che sta scaricando le riserve di un negozio bellissimo di alimentari che sta accanto a questo parcheggio. Un'attività commerciale, un'attività finalizzata alla giusta imprenditoria del proprietario di quel negozio, che sta permettendo, avallando il fatto che un servizio utile alla sua attività commerciale vada a interferire con il diritto di una persona che ha un parcheggio riservato, che non si sa esattamente quali sono i suoi problemi. Potrebbe avere una carrozzina, potrebbe essere impossibile per lui fermarsi con la macchina e scendere, potrebbe avere un'infinità di problemi, per cui il solo fermarsi è un fatto per lui fortemente drammatico o impossibile. Perché a lei viene in mente che sia ipocrita chi riconosce a un disabile il diritto di parcheggiare in un parcheggio, che sia da anteporre a questo suo diritto alla vita, a vivere, avere una vita equiparabile a quella delle altre persone che non hanno i suoi problemi, il fatto delle persone non scaricare un camion per un negozio? Significa che dentro di lei c'è una profonda e radicata convinzione che in realtà il disabile dovrebbe starsene chiuso da qualche parte, non dovrebbe interferire con quelle che sono le attività delle persone produttive. Rifletta su questo, ma non perché voglia cambiare il suo modo d'essere, le sue convinzioni, il suo livello di civiltà, perché potrebbe accadere nella stretta cerchia dei suoi affetti, o potrebbe accadere anche a lei, un giorno dovrà aver bisogno di quel tipo di servizio e si renderà conto quanto è umiliante dover negoziare qualcosa di cui si ha diritto. Giovanna, buongiorno. Buongiorno a lei. Io volevo ringraziarla perché finalmente qualcuno parla di questo gravissimo problema. E le sono molto grata e spero che diciamo questa, cioè quello che è il suo intento, cioè di sensibilizzare le persone e farle riflettere, si verifichi davvero. Io sono moglie di un uomo che ha un handicap molto grave, una malattia neurologica grave, e ha a seguito di questa malattia un parcheggio numerato che è stato rilasciato a seguito, cioè una concessione, un parcheggio in concessione, non so esattamente cosa. Concessione, mi scusi. Sì. C'è scritto, diciamo, sotto il cartello del parcheggio, scritto parcheggio concessione numero. Quel numero corrisponde all'automobile di suo marito. Esatto. Soltanto lui può parcheggiare in quel parcheggio. Esatto, quindi l'handicap è molto grave e è stato comprovato dalla certificazione sanitaria che abbiamo dovuto esibire ai vigili affinché concedessero questa. Sì, è una pratica anche piuttosto complicata, non è una pratica facile. Esatto, certo. Non è. Giustamente. Nessun cittadino può andargli dicendo io ho un handicap per giunta molto grave e ottenere un parcheggio riservato. La legge è ben precisa in questo senso e noi l'abbiamo seguita regolarmente. Tutti i giorni il parcheggio è occupato. È occupato da chi non ha voglia di parcheggiare anche in mezzo alla strada per un attimo, perché dicono sempre che un attimo, preferiscono occupare il parcheggio per handicap, oppure parcheggiano e quando io più volte ho provato in tutti i modi, sono scesa e ho detto guardate che questo è un parcheggio per handicap, insulti, oppure vado via subito, oppure non mi hanno nemmeno ascoltato, hanno lasciato su il finestrino. E poi quando alla fine ho chiamato il vigile è venuto, gli ha detto di spostarsi, questo si è spostato e non è successo niente. Tutte le volte la musica è questa. Beh, il vigile avrà fatto anche una contravvenzione, spero, cioè tolgono dei punti alla patente. Sì, per questo. Adesso adottano questo sistema, se uno deve andare a fare qualcosa va a fare qualcosa, l'altro resta in macchina. Come arriva il vigile dice mi sposto subito, prende e leva la macchina dal posto dell'handicap. Ora, per rispondere anche a quello che ha detto un ascoltatore prima, nel caso di mio marito, lui deve fare un bagno freddo a una certa ora. Quando arriva con la macchina ha bisogno di venire subito a casa perché non riesce quasi a muovere nulla. Capisci che se deve cercare un posto per trovare dove per piazzare la macchina o stare fermo in macchina, infreddolito com'è, allora Giovanna, è un problema grave con il suo marito, ma ripeto, nessuno è tenuto a spiegare una volta che c'è scritto che quel parcheggio in concessione alle persone che passano, la ragione per cui ce l'ha in concessione. Non è tenuto. Chi passa con la macchina e vede scritto parcheggio per disabili in concessione deve comunque sapere quello è un parcheggio in cui non può parcheggiare, deve essere un'azione interiore di chi passa. Non è che lei ogni volta sta lì a spiegare cosa ha suo marito e perché ha bisogno di quel parcheggio. Non dobbiamo porci noi il problema che potrebbe essere eventualmente qualcuno che abusivamente occupa. Non è un problema, bisogna entrare nell'idea che non si può rubare uno spazio di serenità a una persona che ha bisogno. Questo è il mio punto di vista, perché questo a me non è una battaglia sulle istituzioni, bisogna chiamare sempre i vigili poi non fanno le multe, è tutto vero, ma se si parte alla radice del problema, se c'è un condizionamento forte, faccio un esempio, oggi nessuno si siederebbe in automobile e partirebbe senza allacciarsi le cinture di sicurezza, viene in automatico. I bambini che sono già nati con l'obbligo di cintura di sicurezza sanno che se entra in macchina ci si mette la cintura. Questo passaggio automatico ha richiesto parecchi anni. Ci sono state persone che ancora per parecchi anni dopo che è passata la legge si rifiutavano di mettere le cinture, le mettevano facendo finta di allacciarle, in realtà spaccavano la molla in modo che non volevano averle, o però si rifiutavano per partito preso. Girava anche la leggenda metropolitana della maglietta con le cinture disegnate. Perché? Perché non entrava nell'ordine di idee che quello fosse qualcosa che dovesse un dato di fatto acquisito. La stessa cosa dovrebbe valere per i parcheggi per disabili. Vincenzo, buongiorno. Buongiorno a lei. Io sono disabile da 33 anni, seguito da un incidente, giro in carrozzina e ne ho viste tante, ecco, ma non volevo fare nessun tipo di elenco di cose strane capitate. Volevo altresì invece presentare una mia idea, che è quella che più mi pesa, proprio perché lei parlava prima di cultura, ed è quella di chi utilizza gli stalli, i parcheggi per disabili, senza averne diritto, perché noi dimentichiamo sempre che il cartellino è personale, vale a dire è della persona a quale viene rilasciato e non dell'intero nucleo familiare, compresi amici, parenti e circondati. Deve esserci il disabile a bordo per parcheggiare in un parcheggio per disabili, è chiaro. Certo, questo è chiaro. Sì, ed è lì proprio io... quanti parcheggi visti di persone che apponevano il cartellino per disabili che avevano in macchina al momento di scendere senza aver né aiutato a scendere né portato da qualche parte una persona disabile, e quelle sono le persone più difficili da individuare, perché se io parcheggio senza cartellino uno stallo per disabili, che poi mi capiti con una signora di prima che raccontava la sua esperienza tristissima e altro, però sono individuabile, posso essere multato, la mia auto può essere portata via, ma se io parcheggio con un cartellino per disabili, senza averne il diritto, non sono individuabile. Sì, dovrebbe venire un vigile e dire dov'è il disabile, lo faccia vedere, sì, mi faccia vedere. È una cosa che obiettivamente è di una... improponibilità, ho visto alcune discussioni tra l'altro di questa natura. E sì, però lei ha detto una cosa giusta e sacrosanta, però rifarei un passo indietro. Vorrei rivolgermi a una persona che non ha il problema, assolutamente non ha il problema. Poi quello che dice lei rientra nello specifico del problema, di chi abusivamente ha il permesso, di chi prende il permesso della nonna, della zia, chi dice vado, tutte queste cose che conosciamo bene. Ma se noi avvaliamo questa tesi, ci potrebbero essere persone che abusivamente usano quegli spazi, quindi mettiamo il dubbio a chi non ha questo diritto del fatto che potrebbe essere comunque un finto invalido, avvaliamo il fatto che chiunque lascia le macchine ovunque, cioè, ma tanto figurati, con tanti finti invalidi che girano, questo non è un problema che deve interessare le persone che occupano abusivamente questi spazi, è un problema che occupa, che interessa magari a persone come lei, che dice quelli della mia presunta categoria che mi rubano il posto in realtà mi stanno creando un danno, se c'hanno un tagliando di una zia, di una nonna, di un nipote e lo attaccano lì soltanto tanto per parcheggiare la macchina, mi tolgono qualcosa a me. Questo è un discorso lecito. Ma però io ritornerei indietro, riparlerei sulla percezione generale del furto della cosa pubblica da parte di chi la usa in maniera indiscriminata. Ci fermiamo un istante. Scegli Pantera col TH, scegli l'IRP di Infracom Italia per competere nel mondo. Vi presenta Melog, cronache meridiane. Domenico, buongiorno. Buongiorno, sono in diretta. Certo. Mi sente, perfetto. Senta, innanzitutto la saluto, un piacere parlare con lei. Io il problema lo vivo tutti i giorni perché sono un autoferrotraviere, un autista d'autobus da città, servizio pubblico, e lavoro anche per i disabili. Quando si arriva in fermata, non arriva sulle fermate, non riesce a farli salire. Cioè lei parla del tram, quello con le rotaie, per capirci? No, autobus su gomma. Su gomma. Ah, su gomma, sì. Arrivano le fermate, ci sono i disabili, ma sulla sedia a rotelle i disabili riescono anche a spostarsi, riescono a capire che ci sono le macchine parcheggiate e si spostano. Ma la cosa brutta da vedere, e qui mi rivolgo a quelli che parcheggiano sulle fermate degli autobus, sono i non vedenti. Mi creda, quando gli si toglie il punto di riferimento, è certo, è chiaro, dove stanno, dove devono salire, dove devono scendere, li vede, è una cosa che da far accapponare la pelle. Cosa succede? Quando salgono, se riescono a salire, mi dicono mi fai scendere per favore in via Paleocupa, tu gli dici stammi qua vicino perché se arrivo alla fermata e ci sono le macchine nel mezzo, devo indicarti più o meno cosa devi fare, scendi nel mezzo, stai attento. Allora il problema sarebbe risolvibilissimo da parte mia, dare la possibilità a un autoferrotranviere, da un autista, quando lei arrivi in fermata, ci sono le macchine parcheggiate, puoi scendere, ma questo a livello nazionale, scendere, fargli una piccola contravvenzione, in pratica educarle le persone, è brutto dirlo, ma vanno educate. Una piccola contravvenzione, 3 punti in meno alla patente, 38 euro di multa ed è risolto il problema. Sì, ma questo... quando capita le contravvenzioni le fanno, è che in effetti... No, noi non possiamo farlo. No, a voi, a voi. No, direttamente dico... l'autista, io dico direttamente questo non l'autista. Questo non so se sia possibile, onestamente non voglio entrare nei meandri del diritto, però giustamente anche parcheggiare l'automobile in una fermata di autobus, che sembra meno grave, dice ma sì, ma che vuoi che sia, l'autobus non passa, poi ci passano lo stesso. pedoni. C'ha una ricaduta anche molto drammatica. Rispondo a Sofì che mi scrive quella che penso che sia una affermazione priva di senso, però la riporto. Lei, sempre cinico e acre, diventa moralista e perbenino solo quando si discorre dei diritti dei disabili. Allora, moralista e perbenino non lo sono mai. Io divento, diciamo, più propenso ad accorgermi del mondo quando mi rivolgo a persone che non hanno possibilità, capacità di essere autosufficienti. Io sono cinico e acre con le persone che hanno strumenti per difendersi dal mio cinismo e dalla mia acredine. Non me la prendo con persone che in realtà hanno soltanto bisogno di essere aiutate. Mi sembra chiaro questo. Io non prendo a calci gattini per strada, tanto per essere chiaro. Mi difendo con le unghie e coi denti quando trovo delle persone che hanno strumenti per reagire o per offendermi o per avere maniera di essere padroni totali della propria autonomia. Mi sembra chiaro, Sofì, la sua, come al solito, rivela un retrogusto di disprezzo verso le persone che hanno dei problemi. Come al solito c'è dietro questo tipo di affermazioni l'idea generale che certe persone non debbano circolare. Fatevene una ragione, certe persone oggi, per il livello di civiltà che stiamo raggiungendo, perlomeno sulla carta, hanno gli stessi vostri diritti, non devono stare chiusi in un recinto, non devono essere nascosti, non devono, per il fatto che sono probabilmente, pensate, meno utili e produttivi alla società, starsi da una parte, chiusi in un ghetto. Rispondo a Sofì. Walter, buongiorno. Buongiorno, mi sentite? Certo. Buongiorno, molto brevemente, io sono il papà di una bambina disabile. La cosa che dice lei è un problema culturale, assolutamente sì, è un problema culturale e culturalmente. Fondamentalmente si parte, secondo me, da dover lavorare sul problema culturale, sul disagio culturale. Certo. Poi dopo si mettono in atto gli strumenti tecnici, certo. Ma non sta a me. Io quello che ho visto, senza fare tutta la casistica, però situazioni in cui sono stati quasi picchiato da automobilisti che volevano parcheggiare nel posto giallo, che avevano parcheggiato impedendomi di parcheggiare, perché per esempio io sono andato a prendere mia figlia che sta facendo delle terapie in una struttura, lì sotto c'era il posto disabile, dovevo farla salire, dovevo andare su nella struttura, prenderla, farla salire. Mi dicono: ma dov'è il disabile? Qua non c'è, tu sei un abusivo. Andava a prendere sua figlia, andava a prendere. Esatto, dovevo andarla a prendere su. È giusto, la parcheggia nel posto più vicino per recuperare. Certo, altrimenti già così è difficile, ma se no sarebbe impossibile. Poi secondo me uno non deve sindacare la persona. Se ha dei dubbi, segnali la targa dell'automobile, chiami i vigili. Lei non è tenuto a spiegare perché lei parcheggia in quel posto. Non deve spiegare il problema di sua figlia al suo problema, un'altra persona. Quello che a me colpisce è che se uno fa un'affermazione così, cioè se ti dice sei tu un abusivo, è che probabilmente è uno lui così innanzitutto. La gara chi è più abusivo, facciamo così, dice, tanto siamo tutti soci nel rubare qualcosa a qualcuno. Ma vede, è lo stesso retrogusto della signora che mi scrive, dice: tu fai il cinico sempre, però diventi moralista quando parli dei disabili. È come se si parlasse di una categoria di persone che non devono avere nessun diritto, e questo è il fatto. Farei, e lo dico e me ne prendo la responsabilità, una miglior figura, avrei un maggior consenso se avessi dedicato questa trasmissione ai gattini randagi o ai cani orfanelli. Non avrei avuto tante persone che mi abbiano dimostrato un così feroce distacco da quello che faccio e dico. Non sono un moralista, ho sempre odiato questo termine, non mi ritengo un moralista, non ho nemmeno un ordine di valori morali tali da dovermi sentire di difenderli, né li pratico assolutamente nella mia vita, ma ho un profondo senso di solidarietà con le persone che non hanno tutti gli strumenti per vivere appieno la loro possibilità di difendersi, di esprimere i loro pareri, di vivere la loro vita. Mi sembra chiaro. Alla prossima.